Io volevo ringraziare davvero Gianluigi e Angelo di questa, dal mio punto di vista, interessantissima relazione a due voci. Mi hai fatto venire la voglia, Gianluigi, di tornare a leggere Teilhard de Chardin, perché veramente Nietzsche ha detto delle cose straordinarie. Tra l'altro, Don Giorgis, quando Teilhard de Chardin era proibito, aveva avuto il coraggio, urtandosi Andrea come vescovo Maccari, di pubblicizzare non solo tra gli scout ma tra gli amici i testi in francese di Teilhard de Chardin. E credo che Abbeveragno nella biblioteca li abbia tutti in francese. Volevo citare un autore, Nietzsche è un mangiapreti, uno che sul cristianesimo ne ha dette non finire. Pensate cosa ha scritto per stare in tema, nel suo libro L'Anticristo. Ha scritto così: è falso sino all'assurdo vedere in una credenza il segno distintivo del cristiano. Soltanto la pratica cristiana, una vita come la visse colui che morì sulla croce, soltanto questo è cristiano. Ancora oggi una tale vita è possibile. Per certi uomini, per certe donne è persino necessaria. L'autentico, originario cristianesimo sarà possibile in tutti i tempi, non una credenza, ma un fare, soprattutto un non fare molte cose, un diverso essere. Cioè, mi sembra detta Cristianissimo. da lui. Vediamo quella che è quasi di sicuro stata inventata da lui. Quasi di sicuro. Quindi è falsa. Ma Luca avrebbe potuto dire sì, l'ho scritta io, ma Gesù ci si sarebbe riconosciuto. Quindi non è falsa. Altro esempio, poi chiudo. Se io oggi, se devo mettere insieme un'ora e mezza di reportage televisivo su un personaggio morto 20 anni fa, è probabile che io dedichi una decina di minuti, 15, a ripercorrere formazione, famiglia, percorso di vita, eccetera, e poi probabilmente se li ho a disposizione vado ad intervistare persone che lo hanno conosciuto. Perché colgo che lì c'è qualcosa di più interiore e autentico della persona rispetto ai dati anagrafici, che però sono oggettivi, mentre le altre sono interpretazioni. Sì, ma l'interpretazione mi fa andare più dentro alla realtà. Il problema dell'interpretazione è che se è scorretta mi porta fuori. L'antidoto a questo, che comunque è un rischio, cioè il rischio della falsa interpretazione c'è. E nello stesso tempo, se non arrivo all'interpretazione, mi perdo l'essenziale del contenuto. L'antidoto è che possibilmente le interpretazioni siano più di una. E da quel punto di vista, che noi abbiamo quattro Vangeli, non perché quattro, potrebbero essere due o dieci. È prezioso che non ce ne sia uno solo, che non ci sia un'interpretazione sola. È prezioso perché, certo, è la lettura di Matteo. Sì. Come posso essere sicuro che sia affidabile? Ci sono anche dei criteri ecclesiali per cui le prime comunità hanno riconosciuto in quei testi dei testi significativi e in altre no. Altri testi non sono entrati, magari anche antichi. Perché? Perché per le prime comunità quei testi lì non portavano fuori strada, ma poi che ce ne sia più di uno è prezioso. Però certo, quel rischio, e noi siamo sempre consapevoli che non ci troviamo di fronte al Gesù autentico, ma una interpretazione di Gesù, quello sì, quello è vero. Perché collegandomi a questo discorso mi veniva da pensare molte volte, quando anche adesso nella Settimana Santa sentivamo certe letture della Passione o anche che vengono riportate delle parole di Gesù E io mi chiedevo, ma chi le ha sentite quelle parole lì? No, perché evidentemente in quel contesto non c'erano gli apostoli, eccetera. Eppure Gesù ha risposto questo, oppure anche quando è andato a pregare nel Getsemani da solo. E voglio dire, poi non sarà stato Gesù a riferire agli apostoli quello che lui aveva detto, no? Mentre è ricostato. Sì. E quindi mi ponevo proprio lo stesso problema che si stava ponendo lui. E comunque la risposta mi sembra abbastanza soddisfacente. Poi aggiungiamo una cosa, ad esempio, sul Getsemani, che infatti è uno degli indizi sulla passione interessante, perché le parole attribuite a Gesù dai quattro evangelisti non sono identiche. Quindi, anche il finale. Anche il finale è diverso nei quattro, quindi. E quindi ognuno dei quattro ritiene di aver comunque veicolato il senso di quella vicenda, anche se l'ha raccontata in modi diversi. Io butto lì soltanto, sul Getsemani non c'era nessuno. Viene da pensare che quello che con una certa coerenza gli evangelisti raccontano nel momento decisivo, culminante della sua esperienza, con il dubbio sul proprio ruolo e sulle proprie scelte, non sia stato un episodio alla fine della vita, ma tutto sommato fosse qualcosa che magari già nel ministero ogni tanto usciva, ogni tanto tornava. E gli evangelisti lo concentrano lì, tra l'altro trasparentissimi, dicendo: noi non c'eravamo, c'erano tra di noi che dormivano. Quindi come hai fatto a sentire? Probabilmente anche perché non erano riflessioni nuove. In fondo quel dubbio che ci rende Gesù estremamente più vicino all'umanità, perché io lo so senza sapere le vite di tutti, che la certezza sulla propria missione nella vita non l'abbiamo, e i dubbi invece sì, e i dubbi se stiamo facendo la scelta giusta, se abbiamo fatto quella giusta, eccetera, e come. E non vuol dire che siamo pessime persone, vuol dire che siamo persone. Ecco, anche Gesù da quel punto di vista sì, ce lo risitua come vero Signore, perché sai cosa vuol dire faticare a decidere, faticare a stare al nostro posto, ma non per paura e neanche per pigrizia, ma perché non sappiamo se è il posto giusto, che è il vero problema nostro, anche Gesù. E probabilmente non solo al Getsemani, in qualche modo lì lo hanno raccolto, l'hanno messo poi tutto insieme, ma unendo cose che probabilmente avevano sentito. Però, chiedo scusa, sono stato fin troppo lungo. Volevo chiedere a Gianluigi di... Sono rimasto molto colpito da come Teilhard de Chardin presenta il Cristo e il cristianesimo. Cioè, era davvero sicuro che il Cristo è Alfa e Omega, che il messaggio di Gesù ha una valenza assolutamente universale, addirittura cosmica. Era un gesuita Teilhard de Chardin. se Gesù non piaceva a lui. Ma al di là della battuta, Teilhard ha detto: sarò capito quando sarò superato. Sarò superato dal contesto scientifico-intellettuale. Perché effettivamente lui vedeva molto avanti e ai suoi tempi non c'erano ancora le capacità di comprensione di quello che lui diceva e di quello che lui vedeva. Successivamente, negli ultimi 70 anni, c'è stato uno sviluppo culturale proprio che ha permesso di capire molte cose, e questo anche a livello scientifico, che la scienza fa parte della cultura. Faccio soltanto una piccola parentesi. Si tratta di integrare i differenti, le sensibilità differenti, no? Perché integrando i differenti io riesco ad ampliare la visione, la mia visione prospettica, e riesco a capire meglio le cose, effettivamente, com'è, come dicevi tu. E l'idea di Cristo, per Teilhard, Gesù il Cristo non era di questa terra, cioè... noi per troppi millenni siamo, ma per troppi millenni vuol dire fino a 30 anni fa, siamo stati legati a un'idea della terra che, anche se razionalmente lo ammettevamo che era un'idea sbagliata, ma l'idea che abbiamo corrente è che siamo il centro del mondo. Questo è il mondo, quelle terre là fuori, no? Mentre invece noi non, siamo una polvere marginale dell'universo, e non sto lì a raccontare le cose degli astrofisici. E allora noi ci siamo appiattiti su delle religioni di terra. Cosa vuol dire religioni di terra? Vuol dire che come la vita è di terra, perché noi siamo lo stato vivente della materia, e andate a vedere un po' di chimica e biochimica, capite subito questa cosa, e così le religioni che hanno accompagnato questo sviluppo della vita nel suo processo di complessificazione e di coscientizzazione, perché mano a mano è aumentata la complessità, mano a mano è aumentata la capacità di coscienza e di coscienza riflessa. Poi vabbè, sulla complessità faremo poi una conferenza qui, quindi se ne parlerà. Allora, noi abbiamo un'esperienza che complessivamente, culturalmente, filosoficamente, religiosamente, è di terra. Cioè viene dal pianeta. E Gesù il Cristo non viene dal pianeta, viene dall'universo. Direi di più, viene dal campo divino, dove il campo divino è ciò all'interno del quale noi siamo immersi. Questa è l'idea del Cristo cosmico. Attenzione che però c'è una nota di Don Carlo Murari, questo grande teologo che è morto l'anno scorso, che era critica nei confronti dell'idea del Cristo cosmico. Perché Carlo Murari diceva: Cristo è venuto per la Terra, attenzione, sto dicendo per la Terra, per questo pianeta è venuto. Allora, per questo pianeta la vita cosciente è quella che siamo noi qui, e se si presenta un mezzo dinosauro a dirci: guardate, io sono Dio, noi cosa abbiamo detto? Dobbiamo sparargli con un cannone, perché... Sta dicendo, deve venire uno che sia simile a noi e che ha fatto il percorso che ha fatto Gesù il Cristo. Ma non è detto, sapete, gli scienziati si stanno interrogando su questo tema, non è detto che se ci sono degli altri pianeti che hanno espresso il fenomeno della vita e della vita consapevole, non è detto che quella vita abbia questa forma. Non sappiamo che forma prende la vita su altri pianeti. Eppure la vita potrà, sempre per complessificazione, diventare consapevole anche su altri pianeti. Allora, Teilhard notava, come abbiamo letto, che il fenomeno religioso è un fenomeno connaturato allo sviluppo della consapevolezza umana. Non è data consapevolezza umana senza fenomeno religioso. E uno per tutti, vi ricordo, la fede calcistica. Cioè, in assenza di cultura, nell'ignoranza, negli istinti più, viene fuori una fede, no? Perché il fenomeno della fede, della religione calcistica, è connaturato allo sviluppo della capacità consapevole dell'uomo. Allora, Teilhard era sicuro di Cristo che veniva dal campo divino, e che si manifestava a queste consapevolezze emergenti che provenivano dal campo, perché il campo le ha generate. Se tu appartieni al campo divino, non puoi esimerti dal percorso di consapevolezza. Se tu appartieni al campo gravitazionale, non ti puoi esimere dal compito di sviluppare dei muscoli per stare in piedi o per camminare, perché il campo gravitazionale quello richiede. Il campo divino richiede che tu sia consapevole, perché il campo divino che ha generato tutte le cose che esistono non può essere un campo di alienati, può essere solo un campo di consapevoli che sanno quello che stanno facendo. È soltanto in un campo di consapevolezza che si può agire l'amore, che è l'unitivo ma il creativo. Come posso essere creativo se sono un alienato? Allora, Teilhard, è sicuro che o Gesù viene, tra virgolette, dal cielo, cioè viene dal campo divino, o se no, con San Paolo, siamo i più stupidi degli uomini. Allora, nel momento in cui Gesù è questa realtà che viene dal campo divino, a quel punto il fenomeno religioso ha trovato la sua strada, di nuovo, la via, la verità, la vita. Allora io che questa profonda esigenza di religione, di accompagnamento della mia spiritualità, trovo in Gesù il Cristo il punto su cui convergere, l'attrattore e il punto di convergenza, ciò che dà compimento la mia esigenza profonda di cammino e di crescita. Non per niente Teilhard parlava del cono, diceva il cono una base larga, ma tutte le direttrici del cono convergono verso il vertice, che è un punto che lui chiamava Omega. Questo vuol dire che alla base del cono ci sono delle esperienze di vita che generano le religioni. Alla base del cono le religioni sono infinite. Oggigiorno poi hanno inaugurato i supermercati delle religioni. Basta andare nel Brasile di Renato Chiera, scusate che in questo momento. Ce lo dice benissimo Don Matteo, ce lo diceva Don Matteo, è un prete, anche lui missionario, che veniva al nostro gruppo, Vivalda, Don Matteo Vivalda, e ce lo diceva, in Brasile ci sono 2500 chiese, perché ognuno fa la sua chiesa. Ecco, nel supermercato delle chiese siamo alla base del cono, ma se noi saliamo lungo il cono e cominciamo a trovare delle spiritualità e poi dei mistici, sentiamo che i mistici ci dicono tutti le stesse cose. L'esperienza mistica è un discorso univoco, perché l'esperienza mistica è vedere l'incommensurabile, è rendere, attenzione, più che è vedere, ma farsi attraversare dall'incommensurabile, perché l'esperienza mistica è un'esperienza di vuoto, e nel vuoto è lo Spirito di Dio che ti attraversa e ti fa intuire, capire, ti allarga gli orizzonti. A quel punto l'esperienza è unica. In prossimità del vertice non esistono differenze di religione, esistono esperienze dell'incommensurabile. E allora, se io lì vedo un campo, non posso dire che c'è il mare, c'è un campo. E così è l'esperienza. Ecco perché Teilhard, che aveva questo spirito mistico, ci dice queste cose. La sua esperienza di Gesù il Cristo, e ci sono appunto sull'ambiente divino, ci sono delle preghiere incredibili su Gesù, lui che aveva questa esperienza non poteva fare altro che dire il vero si è manifestato e ha dato uno scopo alla religione. Prego, altri. questa realizzazione che in Gesù è stata totale, noi la possiamo realizzare perché siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. Cioè queste prime parole che ci sono, io adesso non so esattamente cosa vogliono dire, però vuol dire che noi questa realizzazione del divino la possiamo realizzare, proprio come diceva lei, se facciamo il vuoto, cioè se togliamo tutto ciò che ci ha condizionato, in cui crediamo, in cui, non tutto, ma molte cose, e permettiamo allo Spirito di Dio di vivere, no? Sì, è certamente così. Se io inizio le scuole senza curiosità e quindi col vuoto mentale, perché se sono curioso di capire una cosa ho eliminato tutte le altre e ho lo spazio dedicato, allora sì, riesco a intuire, a capire qualcosa. E poi, attenzione, una frase che il nostro astrofisico, che è Marco Castellani, mette sempre, è che solo lo stupore comprende. Quindi bisogna fare questo vuoto e farsi stupire dall'esperienza. È inutile razionalizzare. La razionalità è come la macchina là fuori. È uno strumento. Bellissimo, ci mancherebbe, perché con la razionalità scriviamo i libri e consegniamo al futuro le idee che sono maturate. Ma non è la razionalità che fa maturare le idee. Perché la mente non può comprendere l'infinito. Sì, e di non più... Non è in grado la mente umana. Riesce ad andare oltre la mente umana. Entra proprio in comunione con lo spirito, allora la mente umana diventa una mente speciale, perché si divinizza, diciamo così, per dire. Non lo so, io non so esprimermi, ma... Sì, diciamo che noi stiamo diventando della stessa pasta di Dio. Certo. Non siamo la stessa pasta di Dio, ma abbiamo tutte le potenzialità per diventarlo. Allora forse, però, poi mi correggerai tu, nel momento in cui Dio dice che siamo della stessa pasta, sta parlando delle nostre potenzialità, perché poi tocca a noi scegliere la via dell'alienazione o la via della consapevolezza. Se uno sceglie la via della consapevolezza, cresce nella somiglianza con Dio. Di più ancora, ma questo lo dicevano anche i padri della Chiesa, il nostro percorso è un percorso di divinizzazione, proprio per appartenere a quel mondo, a quella realtà, che è molto più larga della realtà di questo pianeta. Che è l'unica realtà. Che è poi la realtà vera. Noi abbiamo messo davanti la realtà del nostro pianeta come verità, ma questo non è vero, perché esistono dei pianeti che sono completamente diversi dal nostro, con altre caratteristiche e che hanno una loro verità, tra virgolette, ontologica, perché esistono. Allora, tenete conto di questa frase di Wittgenstein che io ho brutalmente copiato, che dice che mistico, quindi l'approccio alla verità vera, mistico non è come il mondo è. Mistico è che il mondo è. E io aggiungo, dunque, farsene attraversare. In chiave più biblica, non sono contraddittorie, anzi, quella destinazione ad essere figli di Dio, e Paolo su questo insiste per evitare che si intenda quello semplicemente come una metafora, per dire sì perché veniamo da Dio, no, figli, cioè eredi di Dio, coeredi di Cristo, quando muore il padre ci dividiamo l'eredità con Gesù, che è una espressione assurda per dire, cioè figli davvero, siamo come Dio, quello è il punto d'arrivo. Ciò che noi saremo, che non a caso, è non l'inizio, perché Genesi non ci dice l'inizio, ci dice il principio di fondo, che semmai è più il punto d'arrivo. L'essere a immagine di Dio dice contemporaneamente che l'uomo è capace di Dio, perché non è una cosa diversa, e che la realtà più autentica dell'essere umano è in Dio. E quanto più l'uomo sarà uomo pieno, autentico, tanto più assomiglierà a Dio. E quello è lo scopo, è l'arrivo, punto omega. E certo che sono cose che noi balbettiamo, perché non abbiamo esperienza e quindi non fatichiamo ad esprimere ciò che non abbiamo sperimentato, ma è ciò che intuiamo come punto d'arrivo, verso cui andare, con la sorpresa, se vogliamo, non dovrebbe esserlo, ma una certa mistica anche cristiana ci porta a stupircene, che per essere quanto più vicini e simili a Dio non si tratta di abbandonare l'umanità, anzi di renderla autentica, vera, profonda. Più ci sarà di umanità, più c'è di divinità, che è il principio dell'incarnazione di Gesù. Lui è veramente lui è già quella perfezione a cui noi tendiamo. Quindi praticamente ognuno di noi, come meta, diciamo, di crescita, ha la figura di Gesù. Sì. Cioè, se tutti, per un'ipotesi meravigliosa, diventassimo tutti come Gesù, nel modo di pensare, nel modo di agire, nella mentalità, eccetera, sarebbe il top. Ed è esattamente quello che esprimiamo con il battesimo. Manifestazione di Dio. Sì. È quello che esprimiamo con il battesimo, non solo iniziale, ma nel battesimo ripreso, rivissuto, rifatto nostro, cammino dopo cammino, giorno dopo giorno, di dire voglio vivere sempre di più sul modello di Gesù, che evidentemente non vuol dire un modello esteriore, non dobbiamo vivere in Galilea, cioè questo è abbastanza chiaro, ma su quella fiducia nel Padre e dono agli altri, che non è negazione di me, anzi è mia piena realizzazione, è qualcosa verso cui tendiamo, ma quanto più ci avviciniamo meglio viviamo, di fatto meglio viviamo, perché viviamo la nostra umanità più autentica nell'essere sempre più vicini a Dio, come Gesù, certo, è lui il Signore, maestro, modello, via, verità e vita, non a caso. Però se guardiamo, volevo dire, se guardiamo quello che ci succede attorno sulla Terra, vediamo che come umanità siamo ancora molto lontani, cioè in questa crescita comporterebbe, non so, appunto, non esserci più le guerre. Siamo per strada. La Bibbia è molto ottimista, il che potrebbe stimolarci ad esserlo anche un po' noi. Come al solito il male si fa sentire di più. Commentavo prima che, essendo io abituato a muovermi nella Bibbia, per cui le cose del 100 dopo Cristo sono praticamente domani, prospettiva storica un po' sballata così, in realtà se sui tempi lunghissimi l'umanità migliora. Cioè effettivamente il mondo del primo secolo dopo Cristo, che pure non era pessimo, era un mondo dove la violenza quotidiana anche nei confronti del potere, era molto più presente. Non che da noi non sia più vero, però lo è meno e lo è più ad aree. Quella era la norma. Sui tempi lunghi forse l'umanità si sta trovando. C'è tanta strada da fare. Dobbiamo attivarci ai tempi biblici, sì. E forse anche la Chiesa, tutto sommato. Se non sono le guerre di religione, quello che abbiamo combinato per la Chiesa possa sommare. Ma livello di consapevolezza. Di consapevolezza che aveva, perché pensava di essere nel giusto comportandosi in queste cose estreme che noi abbiamo completamente. Che livello di consapevolezza per molti era perché sono state delle grandi persone che sono grandi santi, diciamo San Francesco, ma il livello anche nella Chiesa stessa era questo. Non pensavano di fare una guerra che fosse male, ma perché dovevano difendere la terra, perché dovevano. Cioè, c'erano anche tanti interessi, c'erano anche tanto potere, cioè, mettiamoci tutti insieme, però qualcuno pensava che fossero giuste quelle guerre. Certo. Come lo pensano ancora adesso? Come lo pensano sì. Ancora? Sempre una giustificazione. Ma la guerra consiste nel riempire il vuoto con il nulla. Questa è la guerra. Perché la guerra insegue la potenza, il potere, che è l'invariante impersonale. E l'impersonale è l'alienazione, che è contraria alla natura umana. La guerra è ovvio, perché quando noi parliamo di 200-300 mila morti, notizie recenti, o di 60 milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale, stiamo parlando di negazione dell'umanità. Quindi la negazione dell'umanità è l'impersonale, no? Perché? Perché noi abbiamo le qualità per diventare consapevoli. Diventare consapevoli significa accorgersi, rendersi conto. Allora, se noi dobbiamo accorgerci e renderci conto, la prima cosa che viene fuori, se torniamo ai comandamenti e abbandoniamo un attimo le beatitudini, è... ama il prossimo tuo, ama Dio e il prossimo tuo come te stesso. Chi è te stesso? Chi è che ama se stesso? Chi è capace ad amare se stesso? Beh, siamo capaci ad amare noi stessi nel momento in cui abbiamo consapevolezza di noi e sappiamo accoglierci e sappiamo integrarci. Allora riusciamo a costruire poco per volta l'interezza di noi stessi. L'interezza di noi stessi non è niente altro che personalità. Allora io da animale, diciamo così, divento umano e divento di più persona. Ovviamente nel momento in cui io passo la soglia della persona inizia un nuovo percorso, un cammino di personalizzazione. Ma la personalizzazione fa emergere una visione delle cose che apre gli spazi alla spiritualizzazione. Allora la persona, quindi consapevole, cosciente di sé, è un soggetto che inizia un percorso di personalizzazione e di spiritualizzazione che si alimentano a vicenda, perché più spirituale sono e più personale divento, e più personale divento e più spirituale. Per andare dove? Per andare all'oltre di me stesso, in maniera da incontrare in relazione evolutiva, cioè di cambiamento, l'oltre di Dio. Quella è l'esperienza mistica. Certo. allora il cammino parte dalla materia e attraverso la materia arriva oltre questa realtà terrestre. È per questo che Teilhard teorizza lo spirito materia, come dicevamo prima, e dice che non esiste qualità differente dallo spirito materia che abbia potuto generare la molecola umana. La molecola umana deriva da una sostanza nuova o vecchissima che è lo spirito materia. Allora, il percorso di consapevolezza ci porta lì. Se abbandoniamo quel percorso, inizia non una evoluzione, un cambiamento uscendo da noi e l'andare oltre. Inizia un percorso di regressione, dove lo spazio viene preso dall'invariante impersonale. Il demonio? Qualcuno potrebbe dire. Beh, semplicemente la nostra incapacità di gestire l'energia umana in un senso umano. Ti sei reso conto che sono 3 e 5. Non sono grazie, stavamo salutando. Sì. Grazie. Non per andare fino a Cuneo, che mi sembra il caso. Sì, io allora ho raggiunto il mio tempo lì. Grazie. Ritiro il mio computer, vi saluto, ma voi continuate, ovviamente. Grazie a compagnia, ero contento di essere vicino a te, eh? E io non sapete dove sono, adesso venire a fare il volontariato, devo prima mettermi un po' posto. Io vado lì con lei, ciao, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Stamattina ho citato un passo di Nietzsche che era sostanzialmente un mangiapreti. Era figlio di un pastore, protestante. Ho trovato in un libro che ha scritto Kierkegaard, Esercizio del cristianesimo, questa brevissima preghiera. Signore Gesù, tu non sei venuto al mondo per essere servito e quindi neppure per farti ammirare o adorare nell'ammirazione. Tu eri la via, la verità e la vita. Tu hai chiesto solo imitatori. Risvegliaci dunque se ci siamo lasciati prendere dal torpore di questa seduzione, la seduzione dell'ammirare. Salvaci dall'errore di volerti ammirare o adorare nell'ammirazione invece che seguirti ed assomigliare a te. Cioè quello che diceva un po' Adriano prima sull'imitatore. In fondo mettersi sulle orme di Gesù vuol dire tentare questa avventura di essere, cercare di essere in qualche modo suoi imitatori, che è un'impresa immane, ma forse proprio questa. Io non capisco niente, ma penso che non è che noi dobbiamo volere cercare, perché lo spirito che è in noi è lui che ci guida e che ci dona negli avvenimenti quotidiani ciò di cui abbiamo bisogno per crescere. Quindi non è che è uno sforzo mio, perché se è uno sforzo mio, come dice la prima, è uno sforzo mentale che io costruisco con la mia mente. grazie di tutto. Poi non so se è giusto questo concetto, io penso che non è che noi dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo fidarci di lui, abbandonarci a lui, come diceva Angelo, ci sono due comuni e l'abbandono e l'altro è lo spirito. Questo abbandono è avere proprio fede in questo spirito che è in noi, che ci guida, ci parla, ci consola, ci sostiene. E ci fa luce anche per conoscere noi stessi, anche i nostri limiti, le nostre incapacità, perché conoscere le nostre, per esempio se uno è bugiardo ma non lo sa, non guarirà mai da questa cosa, perché non è neanche consapevole. Come faccio io? E invece penso che, poi io non so cosa penso, questi sono i miei pensieri, non sono i pensieri di persone particolari, sono il mio modo di pensare. Io penso che abbandoniamoci allo spirito, perché lo spirito crea anche le situazioni di vita dove noi ci fanno anche male molte volte, ma è proprio lì che conosciamo quello che c'è dentro di noi. E conosciamo noi stessi, però ci ha fatto la volontà di Dio, secondo me, è proprio abbandonarci da qualunque situazione ci viene data, anche se non la capiamo, anche se è una cosa tremenda, anche se non la vogliamo, ma c'è, come il Signore ha accettato di morire in croce, magari non era sicuro se quello era il momento, ma non dico altro perché mi confondo le idee con le mie idee che non contano niente, perché sono solo mio pensiero personale. Ma viene da pensare che tutto questo fa parte di una cosa meravigliosa e idilliaca, che tutti crediamo in Gesù e aspiriamo e ci svegliamo e ci connettiamo con lo Spirito e in questo modo riusciamo a creare un'amalgama tra noi e la realtà intorno, che invece è così sfigato da non sentire questa cosa, come si muove? Io ho perso il suo incipit, mi dispiace. Lei di che cosa stamattina ha parlato? Ha parlato di come nel Vangelo di Matteo si presenta il seguire e testimoniare e vivere Gesù. È chiaro che si inizia a metà, nel senso che la domanda è serissima e non è semplicemente questione di percepire, di sentire o diventarlo, ma parte dalla domanda di fondo, quindi non era neanche il tema di stamattina, ma giustamente sì. Il contesto è questo, sì. Ed è sensatissimo chiedercelo. Il contesto di fondo è di una vita umana che noi ci troviamo a vivere sapendo che dobbiamo interpretarcela, sì. Che abbiamo delle decisioni da prendere e delle modalità di stare dentro le situazioni che non decidiamo, che ci interpellano. Sarebbe forse disumano, ma in ogni caso non è fattibile lasciare semplicemente che ci viviamo, che ci viva addosso la vita. Non funzioniamo così. E a quel punto la domanda sul quali sono i criteri che fanno della mia esistenza qualcosa che sia sensato per me e magari sostenibile e vivibile per me, o addirittura che risponda a quella promessa di gioia che noi nella vita percepiamo. Una promessa. Molto spesso siamo portati a sentire che quella è una promessa falsa, perché poi non arriva quella gioia che mi aspetto. E questa è la domanda che gli esseri umani si trovano in modo più o meno consapevole, però questo c'è. Dentro a questo ci sono tentativi di interpretazione della vita umana vari, compreso quello del nostro contesto culturale, che non è neutrale, che ha come fondo l'idea che devi puntare alla tua realizzazione personale, dimenticando sostanzialmente che fai parte di una comunità perché non è significativo e tenendo conto che ad essere decisivo nel tuo realizzarti personalmente è il piacere che tu riesci a mettere insieme e una valutazione economica, perché sono la chiave di successo. È l'interpretazione del nostro mondo culturale, sostanzialmente, fatta molto semplice, ma dentro a questo ci sono esperienze di vita, anche qua ci sono interpretazioni teoriche, ci sono interpretazioni culturali sottintese, ci sono esempi di vita, sono modi diversi, però che puntano sempre a quello, che pretendono di poter essere significativi non solo per loro, che l'hanno vissute, ma anche per altri. Dentro a queste proposte effettivamente si muove anche la proposta di Gesù, che è meno una cosa teorica, lo è diventato anche, perché come tutte le esperienze di vita può essere anche teorizzata, ma innanzitutto un modello di vita. Una delle cose che non ho detto stamattina, che avrei potuto dire, è che è interessante che nei Vangeli, persino in quello di Matteo che concentra così tanto sull'insegnamento di Gesù, non esiste un insegnamento di Gesù senza la sua vita. Cioè, non abbiamo un Vangelo che non presenti insieme come Gesù ha vissuto. Anzi, ce lo avremmo avuto quel Vangelo, ma non a caso non è finito nei canonici. Perché il Vangelo di Tommaso è un Vangelo antico, ed è, non è stato scritto dopo il 120-130, cioè contemporaneo con Giovanni. E non dice niente di strano, perché poi l'abbiamo ritrovato durante il XX secolo, era citato dagli autori antichi, ma non lo avevamo, l'hanno trovato a Nag Hammadi, ma non è niente di straordinario, cioè tante di quelle frasi, è una serie di frasi di Gesù, una buona parte dei quali ci sono anche nei Vangeli. Qualcuna non c'è nei Vangeli, ma due o tre hanno tutta l'aria di essere davvero di Gesù, perché quello non è finito nei Vangeli canonici, non lo sappiamo perché non ce l'hanno spiegato, ma molto probabilmente perché non c'è la vita. Perché non c'è Gesù che vive, ci sono solo dei detti. Perché non c'è la vita. Non c'è la vita, ci sono solo dei detti di Gesù, senza episodi, miracoli, camminare, eccetera, passione, eccetera. Allora, l'interpretazione di Gesù è quella di una sua esistenza, inserita già dentro ad un percorso religioso che lui recupera e fa proprio, che è quello del mondo ebraico, che, di nuovo, semplificando molto, interpreta di fondo l'esistenza umana come un'esistenza affidata a relazioni con altri esseri umani e con un trascendente che è personale e con il quale si può entrare in rapporto non percepito ma personale, che in ultimo è una promessa. Riprende la promessa e dice: quella promessa vale anche oltre ciò che sembra negare. È un'interpretazione proposta, è un po' come una interpretazione artistica, un quadro sulla vita umana. Dice, ti convince, allora aspetta, non mi deve convincere razionalmente perché non è quella la modalità, mi coinvolge, mi convince, allora a quel punto, in quel senso che riesco ad entrarci in sintonia, è una interpretazione che mi sembra parlarmi. Questa è solo la chiave d'accesso. Dopodiché, come nella nostra vita umana tutta, dall'intuizione di una modalità che potrebbe essere promettente, la devo poi mettere a terra, la devo concretizzare, e lì la dimensione non è più principalmente quella del sentire, ma è quella della fedeltà ad un'intuizione, in cui io porto avanti quello che ho colto, magari solo per un momento, come promettente davvero. Ed è lì il difficile dell'umano, che quella percezione non è detto che si mantenga quasi mai, quasi mai, e non può che subentrare la domanda sul e se mi stessi sbagliando, che è quella più radicale che ci portiamo dietro nelle relazioni personali e nella scelta di vita. È quella che, non ho approfondito stamattina, riscopriamo in Gesù nel Getsemani. Il problema di fondo del Getsemani è non ho paura, ma se sei figlio di Dio e se non lo sono e se mi sbaglio, che è esattamente il più grave, drammatico, profondo e serio interrogativo umano. E da quel punto di vista non c'è uscita. Cioè, i Vangeli sono spietati. Marco, su cui ci si fermerà domani, è fantastico, bellissimo, modernissimo nella sua spietatezza, perché Gesù prega e dall'altra parte non c'è un cenno di risposta. Zero. Luca ha l'angelo che lo consola. Grazie Luca, ti vogliamo tanto bene, ma hai semplificato le cose. Marco è più schietto, non c'è niente. E allora? Una domanda Vai. Forse banale, ma mi è venuto in mente quando nello Getsemani, ma gli viene il dubbio se mi sbaglio. Una domanda che spesso trovo con Don Matteo, ma non è mai stato più. Gesù è nato imparato o ha imparato cammino? Allora, questo i Vangeli sono duri e precisi. Quando si rendono conto, Matteo e Luca, Marco non ha il problema, non se lo fa, vabbè, buon per lui, che il rischio è quello di dire... Allora, anche qua semplifico un pochino delle ricostruzioni verosimili. I cristiani intuiscono nella risurrezione, non prima in modo definitivo, che Gesù aveva in sé una pienezza di umanità unica, tanto da farti dire è divina. Gesù è Dio. Ma ne era consapevole. Semplifico, un momento, arrivo, no. E dicono... Vabbè, se lo era nella risurrezione doveva esserlo anche prima. E quindi ritorni a verificare la sua esistenza sapendo che era anche divina. Da quando? Qua subentriamo noi, esseri umani, con il nostro problema. Perché quando noi pensiamo ad un essere umano pieno, lo pensiamo adulto, nella sua forma piena. E c'è l'episodio della intuizione su di sé di Gesù al battesimo di Giovanni, che potrebbe portare a dire è Dio da quel momento lì. Prima no, perché non era imparato. Matteo e Luca in quello giustamente intervengono dicendo lo è dal concepimento, cioè da prima della nascita. Luca: oggi vi è nato per noi un Salvatore. Questo è il segno. Troverete un neonato avvolto in fasce. Con tutto il rispetto, Luca, di neonati avvolti in fasce, che erano pannolini, ne abbiamo già visti un po'. Cos'ha di straordinario? Non ha nulla di straordinario, apparentemente. È l'umanità piena. Ed è un'umanità piena su cui si insiste sul fatto che è avvolto in fasce. Tradotto, non è neanche capace di tenersi il controllo degli sfinteri. Che è esattamente la nostra umanità, che impariamo a vivere. Che noi veniamo al mondo dovendo imparare un sacco di cose, a partire da dove finisce il nostro corpo. Anche lui. E se è così, non posso immaginare che poi a un certo punto, tac, ha capito tutto, di colpo. Se non sarebbe quello il momento in cui diventa divino. No, è divino da sempre. E vuol dire che è divina anche la fragilità umana, e la crescita umana, e il dubbio umano. Perché di Gesù si dice che è senza peccato, ma non che è senza dubbi. Perché i dubbi sono umani e non allontanano da Dio. Anzi. San Giorgio diceva che avvicinava. Certo. E certo. Perché è la nostra caratteristica umana. La consapevolezza di noi implica la domanda sulla consapevolezza e implica la possibilità di una risposta sbagliata. Implica che lo sappiamo che potremmo sbagliare a darci le risposte. E questo è affascinante ma tragico. se Gesù non ha conosciuto questo, la lettera agli ebrei su questo è di una cattiveria divenuto perfetto da quello che ha subito, perché non lo era. Perché finché non passi da quello che passiamo noi, che siamo dentro situazioni che non ci siamo scelti e che dobbiamo cercare di capire e di vivere, spiace, non sai cosa vuol dire essere umano. È divenuto perfetto pur essendo figlio, perché ha capito cosa vuol dire. Ecco, c'è passato anche lui, se no non ci siamo, non sei uomo. È certo che è difficile, è certo che l'interpretazione, poi è anche certo, perché la nostra umanità è anche fatta di questo, siamo mica tutti uguali. E ci sono, come ci sono le persone alte 2 metri, che non so bene come facciano a vivere con la loro altezza, e lo dico io, ci sono le persone che riescono a vivere in totale serenità e fiducia la propria esperienza. Bellissimo, ma non è per tutti. E altri che vivono nel dramma più totale. Perché mi viene da dire, perché siamo diversi. Perché io sono alto così e l'altro è alto cos'ha? Perché siamo diversi. E tanto io devo vivere l'esperienza mia, farmi i conti con la mia. E almeno non devo chiedere più di tanto, sì, se no con curiosità cosa potrebbe voler dire vivere in una fiducia serena, totale, poliannesca, per cui tutto è bello. E beh, non è la mia esperienza, va bene, non importa, vivi la tua. Ho buttato lì un mare di robe, scusatemi. Se sapeva o non sapeva, come la mettiamo la frase che prima del battesimo di Gesù a quei poveracci di papà e mamma dice: ma no, voi non sapevate che io... E io gli ho detto: ma sei maleducato? No, non lo, io gli ho risposto: io, no, non lo sapevamo. E allora dicelo. E come no, la mettiamo? La mettiamo divinità, che... non divinità, sapeva, non sapeva. 2 cose. La prima, spero che non venga giù il finimondo, nel senso che potrebbe essere il segno che l'ho detta troppo sbagliata. Non caricarti di tanto piove. Tanto piove, dire. Allora, la... Luca soprattutto, che racconta quella frase lì, è molto chiaro nell'indicare un criterio storiografico preciso nell'anno 14 dell'impero di Tiberio Cesare, quando era procuratore, all'inizio del capitolo 3. E non ce lo mette all'inizio del Vangelo. È abbastanza trasparente per dire: qui inizia la storia, prima è un'altra cosa. Non è un caso che se leggiamo i 2 Vangeli dell'infanzia, Matteo e Luca, togliendoci la fodera di prosciutto della retorica natalizia, ci accorgiamo che quei 2 Vangeli non vanno d'accordo, dicono 2 cose diverse, non sono compatibili. Giuseppe e Maria sono di Betlemme o di Nazareth? Perché per Matteo sono di Betlemme, per Luca di Nazareth. E sono arrivati i magi o i pastori? Perché per l'uno l'uno, per l'altro l'altro. L'apparizione a Maria oppure i sogni a Giuseppe? Cioè, sono 2 storie che sembrano non avere quasi contatti. Poi noi le abbiamo mescolate insieme in un bel amalgama natalizio, però è falso, i Vangeli non sono così. Quindi, prima cosa, quello che c'è prima, quello, i Vangeli dell'infanzia non sono da considerare alla lettera, ma indicano una lettura di fondo della persona di Gesù. Ciò detto, mi indicano una lettura di fondo in cui Gesù sembra molto sicuro di quello che è il suo posto. E anche lì Luca dice: sono stupiti dalle sue domande, che è una roba che qualunque insegnante sa, che è molto interessante. Cioè, di solito le persone intelligenti non hanno già tutte le risposte, ma ti fanno le domande intelligenti. Cioè, le persone che sono entrate in profondità sanno farti le domande giuste. E loro, i dottori della legge, sono stupiti dalle sue domande. Perché questo è uno che è indubbiamente mostra di avere un rapporto con il Dio Padre nel Tempio, che poi durante la vita frequenterà in modo... discontinuo e litigandoci abbastanza con i dottori della legge del Tempio, che però è particolarmente intenso. Quello sì, quella è un'intuizione, ma in fondo anche lì non è esperienza umana. Che ci sono bambini di 8 anni che hanno già l'intuizione su quello che sarà il loro percorso di vita, la loro professione, quello che vogliono fare. Poi a volte è sbagliato, ma a volte no. E sembra qualcosa del genere, cioè l'intuizione che questo rapporto con Dio, padre, chiamato padre, che non era una modalità consueta per il mondo ebraico, si usava ma poco, era una cosa importante per lui. Dopodiché risponde malissimo, perché la famiglia, ma lo rifarà dopo, di rispondere malissimo così. A noi fa tanto carino, chi è mio padre, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chiunque custodisce la legge di Dio per me, fratello e sorella. Ma che bello, cioè lui ha appena mandato via sua madre e i suoi fratelli che sono venuti a prenderlo, e il comandamento dell'onore dei genitori è un comandamento divino e lui ha detto me ne frego. Perché c'è un rapporto con la famiglia che Gesù ritiene che quando è condizionante e non ti lascia libero passa dietro ad altre intuizioni. È un'affermazione pesantissima nel mondo ebraico questa, ma pesantissima. Di fatto è una violazione del comandamento divino. Persino il comandamento divino passa dietro ad una intuizione del cammino con Dio. Non è una cosina, No. E Gesù non è un irenico, su alcune cose è estremamente pronto ad andare sempre incontro alla persona, su altre, mamma mia, durissimo. E quel criterio sul perché su certe cose sia così duro vale la pena continuare a indagarci, a pensarci, eccetera. Non l'ho detto così forse, sai. Al buono si direbbe di sì, ma anche lì quando risponde male a sua madre alle nozze, no? Dice ma cosa ti interessa? Cioè non so se la traduzione, no, lì il problema non lì è anche maleducato, no? Sì. Poi lei se ne dice fate quello che vi direi passa sopra. Però se ma lì è trovato un altro discorso. Vabbè, comunque no, per dire, no? Però sì, vero. Suona chi è non è proprio dentro. No, lì non è questione di traduzione che è precisa e anche l'impressione che ci dà di essere maleducato. No, non è che sembra, lo è. Non ci si sarebbe potuti immaginare mai di rivolgersi alla propria madre chiamandola donna. Era una roba. Solo che probabilmente non era riferito alla donna Eva ti schiaccerà, potrebbe infatti sì, sarebbe un rimando interessante secondo un filone di interpretazione lì, più che essere Maria di Nazareth è la madre di Gesù come simbolo del mondo religioso da cui Gesù viene, cioè l'Antico Testamento, sarebbe coerente con l'altro momento in cui Gesù la chiama donna sotto la croce, cioè lui è sulla, lei è sotto, e però appunto allargo ancora troppo il discorso, poi chissà cosa succede. Prima che venga giù la grande, insomma. Voi cosa fate? Noi dovremmo andare forse, o no? Ce l'abbiamo l'ombrello. Aspettiamo che quello che volevo fare la pioggia me lo rimanda, va? Sì? Ma sono più contento di rimandare che ci sia la pioggia. Che ci sia la pioggia, però che piova davvero. Che piova davvero. Io devo andare, però. Perché oggi mi ero riproposto, dico prima andare via bagno le rose. Ma c'è di rose. Mi ero riproposto anche io delle cose buone. Ma come se vedo per cellulare? Domani. Ma la mia domanda è. Parla Massimiliano, parla forte perché qui abbiamo non abbiamo sentito. La mia grande ignoranza dei Vangeli che non conosco proprio. vari anni della vita di Gesù ci sono raccontati tutti? No, infatti la domanda è intelligente. No, non fanno, non c'è una biografia di Gesù. I Vangeli sembrano una biografia, ma non lo sono. Non sappiamo, allora, se noi prendiamo solo i sinottici, non sappiamo neanche quanto è durata la sua missione. Non è possibile calcolare. Non c'è, Luca continua a dire, fa metà Vangelo dicendo di questo viaggio verso Gerusalemme, perché non si capisce bene dove passino. E Luca sa raccontare la geografia vera. Perché poi quando invece scrive gli Atti degli Apostoli la geografia è perfetta, i viaggi sono tutti molto facili da ricostruire, tutti spiegati molto bene. Perché non lo fa anche nel Vangelo? Perché probabilmente è voluto, perché più che raccontarci una storia, che non fanno, ci vogliono raccontare che Gesù ha vissuto esperienze, ha incontrato persone, eccola, sì, non basta il suo insegnamento, ma non è significativo neanche il percorso di vita, è significativo che abbia vissuto. E non è possibile ricostruire una biografia. I 3 anni sono ricostruiti a partire solo da Giovanni, che racconta 3 Pasque di Gesù a Gerusalemme, che a quel punto uno potrebbe anche dire, ma magari quindi vuol dire minimo 3, potrebbero anche essere 10 anni, sulla carta sì, per sé. Poi ci arrabattiamo un pochino anche dal punto di vista della cronologia. In realtà la ricostruzione è molto più probabile che effettivamente si sia trattato di poco più di 2 anni, 3 Pasque dal 28 al 30. E se prendiamo per buona la cronologia di Giovanni, sappiamo anche la data di morte, che dovrebbe essere il 7 aprile del 30, se no il 4 aprile del 33, ma più facile del 30. Però dobbiamo prendere per buona la cronologia di Giovanni, che dice che Gesù è morto il giorno prima di Pasqua, di una Pasqua che cadeva di sabato, cosa su cui i sinottici non sono d'accordo, perché neanche su questo sono d'accordo. I dati storici molto spesso dei Vangeli sono che, allora, noi da moderni diciamo, ma allora non sono affidabili, cioè non si mettono neanche d'accordo sui dati storici. Sì, però gli antichi fanno altra roba con il materiale storico, sono molto più, noi diremmo, disinvolti e superficiali. Non solo gli ebrei antichi, io voi mi fermate, perché lo sapete che parto e voi bloccatemi. Cito sempre Tucidide, storico greco ritenuto il modello di obiettività storica ateniese, racconta la guerra di Atene contro Sparta e al limite ti viene sospetto che tifi per Sparta, quindi cioè fantastico, obiettivo, che nella introduzione, quindi principi di fondo, spiega che riporta dei discorsi. I discorsi che riporta sono o discorsi che lui ha sentito dire dalle persone, perfetto, bravo, o che gli sono state, tutto a posto, ho girato la testa. No. Girato la testa, credo, è caduto sulla sedia. O che mi sono stati riferiti da persone affidabili, ottimo, buono, o che è verosimile che abbiano detto in quel contesto, e noi già cominciamo a dire, aspetta, è verosimile, l'ha detto o no? O che era bene che dicessero, no, era bene che dicessimo, ma che discorso è sto qua? Te lo sei inventato? Sì, però avrebbe dovuto dire queste cose qua, perché spiegavano il contesto che c'era, e questo è Tucidide. Figuriamoci gli altri. Il punto è che il nostro, abbiamo un rapporto con la verità che è diverso. Come dicevo stamattina, in realtà poi noi non è che siamo impeccabili, lo dicevo oggi pomeriggio, scusate, l'ho già detto. Perché se io prendo una battuta detta da uno al bar a mezzanotte con gli amici dopo quattro birre e l'ha detta, quella può essere sul giornale tra virgolette senza contesto e non è attaccabile. Dice, vabbè, però aspetta, no, cioè, ci sono dei contesti in cui si capiva che era una battuta. Sì, si capiva, dillo però allora, se no, cioè, io posso anche non dirlo. Però noi lo sappiamo che funzioniamo così, che a volte sì, ma si capisce, no? Si capisce, ma tanto lei ha detto queste cose, quindi... Cioè, anche noi abbiamo un rapporto con la verità che non è sempre ineccepibile, neanche loro, perché il rischio con quel modello è di dire sì, ma se non l'hai capito te lo sei inventato, è possibile. Quindi ci manca, scusate, ci manca proprio una parte di sì. Quello che, diciamo, Gesù... Tanto. Secondo il Vangelo di Giovanni, le due conclusioni, tutte e due, dicono tante altre cose, domani mi sembra il Vangelo, che tante altre cose si sarebbero potute scrivere di quello che Gesù ha detto e fatto, che si potrebbero riempire tutti i libri del mondo, ma queste sono state scritte perché voi cambiate. Si potevano dire altre cose? Sì, non sono state dette. Neanche nel Vecchio Testamento? No, no, nel Vecchio Gesù non sa nulla, realisticamente parlando, perché non c'era ancora stato. Quando poi i cristiani ragionano su Gesù, dicono, ma in fondo tante cose dette dall'Antico Testamento si applicano benissimo a Gesù, quindi era già un anticipo, però in realtà è un anticipo neanche profetico, cioè sì, profetico nel senso proprio, nel senso che Dio è così e farà queste cose qua. Guardi a Gesù e dici, le ha fatte davvero, ma è solo coerenza divina, se vogliamo, non è previsione di quello che Gesù avrebbe fatto. Volevo chiederti, sempre a proposito del fatto che di Gesù non sappiamo niente da, diciamo, 12 anni a 30 anni, non sappiamo assolutamente nulla, però mi sembra recentemente di aver letto che una delle più, dei lavori più significativi che emergono dagli ultimi studi biblici è quello di riuscire a ricostruire in modo abbastanza dettagliato la vita degli uomini e delle donne della Palestina che hanno vissuto ai tempi di Gesù, ma in modo molto, molto, molto dettagliato. Quindi in base a questi studi possiamo presumibilmente ritenere che Gesù abbia fatto determinati lavori, si sia comportato in un certo modo, dal punto di vista religioso abbia, no, compiuto determinati atti. Secondo te questo è vero? Allora, c'è tutta la ultima o penultima ricerca su Gesù storico che va molto in questa direzione e ottiene dei risultati estremamente interessanti. Sì, purché ci ricordiamo che tutto ciò che riguarda la storia antica noi dovremmo trattarlo, gli storici lo sanno, come probabilità. Cioè, è molto probabile che, o è quasi sicuro che, o è abbastanza improbabile che, perché ragioniamo sui criteri generali. Ve ne racconto una. Anni fa, un'amica l'ha perso un ragazzo. Cerco di farla breve, questo ragazzo è un incidente. Nei paesotti il rischio è un po' quello, praticamente il paese è piccolo e ci si aspettava che questa diciottenne restasse vedova a vita, senza essersi mai sposata peraltro. Dopo 4-5 anni inizia a parlarsi con uno, io ero a Roma, e mi dice, guarda, vorremmo fare un po' di periodo insieme, una vacanza insieme, anche per provare un po' a parlarci con un po' più di tranquillità, stare insieme, la cosa potrebbe diventare seria, non lo so, però non da qui intorno, che qua ci rompono l'anima sempre, possiamo venire a Roma e ci ospiti 3 giorni e facciamo un po' di vacanza fuori dal giro, ponte del 25 aprile, ma figurati, vieni pure. Prima sera andiamo a fare un giro in centro, entriamo in Piazza di Spagna, per chi conosce Roma è piena così di gente, poi di sera, poi ponte, figuriamoci. Entriamo in Piazza di Spagna e troviamo il gruppo di 10 coetanei del paese che erano venuti a Roma. Ora, è chiaro che da un punto di vista statistico quell'incontro lì era molto improbabile. Come sappiamo tutti noi nella nostra vita, qualche esperienza del genere ce l'abbiamo, era molto improbabile, ma è successo lo stesso. O era molto probabile, ma non è successo. Allora, una volta che manteniamo che anche per l'esperienza di Gesù, il fatto che sia probabile una cosa nella vita non vuol dire che succede, e che sia improbabile non vuol dire che non succede, vuol dire che sì, è possibile. È possibile. Allora, una volta che ci sia presente quello, sì, ce la facciamo. Liverani è uno splendido, fantastico, ormai in pensione, storico, un pezzo enorme della cultura storica antica italiano, uno di quegli italiani che si vede i libri tradotti in serie in inglese, perché i suoi libri erano decisi, ormai sarà più vicino ai 90 che agli 80. Non ho più visto che scriva nulla, dovrebbe essere vivo ancora, però vabbè. Mario Liverani. È uno storico. Interrogato su ma Gesù è esistito davvero? Liverani ateo, è proprio profondamente, diceva, allora, tanto io sono uno storico dell'età antica che finisce nel 500 avanti Cristo, quindi Gesù è fuori dal mio campo, però a parte questo, se ragioniamo da storici antichi, neanche l'esistenza di Alessandro Magno è sicura al 100%. Perché potrebbe essere un falso, è molto poco probabile, ma non è del tutto impossibile. Quindi se mi chiedete se Gesù è esistito, io non vi posso dire di certo sì o di certo no. Poi vi facciamo tutta una serie di considerazioni interessanti che si collega a questa quarta tappa, quarta fase di ricerca su Gesù storico, che va molto in questa direzione e che oggettivamente sono studi interessanti, che ci permettono di dire qualcosa. Quindi è probabile che magari Gesù abbia voluto anche, come dire, dei contatti con le culture orientali. Allora, con la cultura greca è praticamente sicuro. La cultura greca raccoglieva tanto che veniva anche dall'Oriente, anche da. Direttamente con culture orientali è poco probabile per via dei contatti semitici, semiti eccetera, ma non è possibile. No, quel contatto con il mondo indiano teoricamente è possibile, poco probabile, ma poco probabile non vuol dire no. Sì, infatti. Cioè, a me cose del genere possono anche interessare così, solidificare un pochino, però tendo a pensare che quello che ci viene dato di significativo è quello che c'è. Sì. E considero significativo anche il fatto che non ci sia tutto, tutta questa parte, che è la gran parte della sua vita, perché credo che anche questo sia un messaggio che ci viene almeno così come lo prendo com'è. Poi mi posso andare a ravanare per trovare qualcosa, però quello che trovo probabilmente non mi dà di più del fatto che non, anzi forse mi dà qualcosa di più il fatto che c'è questo silenzio, perché vabbè, poi va interpretato, sì, naturalmente. E d'altra parte anche adesso parte questa cosa grossa, enorme, no? Quasi tutta la vita, la grande maggioranza della vita di quest'uomo che poi ha avuto un'incidenza pazzesca nel mondo e di cui abbiamo una così presenza storica, insomma, presenza conosciuta almeno assolutamente infinitesima rispetto a tutti gli altri personaggi che possiamo immaginare, che possiamo avere, insomma, come presenza, sì. Come durata, temporale, sì. Non lo so, mi sembra veramente impressionante. Però. Comunque, a parte questo, in generale, anche in altri momenti di lettura dei testi, molte volte mi viene da mi incuriosisce quello che poteva esserci, ma non c'è. Cioè, a volte ci sono delle... E se fosse No, non c'è. Perché non c'è? Perché non ha risposto lui? Perché non ha fatto cosa? Quello che tu dicevi, ad esempio, appunto, perché non è, cioè, era andato via, era scappato tante volte, no? Che si volevano prenderlo. Quella volta lì, è la volta che basta, no? Adesso vado a Musuro, poi incontro questa cosa. Però non era scontato, cioè, poteva anche, in fondo appunto, forse aveva anche, avrebbe potuto pensare di avere ancora tante cose da dire, da fare, perché doveva chiuderla lì, e invece la chiusa lì. Questo per dire una... No, no, ma è una riflessione intelligente. E Luca, allora, per chi non sapesse, ma gli Atti degli Apostoli sono la seconda parte del Vangelo di Luca. In origine erano un'opera unica. Luca, quindi, alla fine del Vangelo ci dice che Gesù sale al cielo, e ce lo dice anche all'inizio degli Atti degli Apostoli, che nell'opera iniziale erano una pagina dietro l'altra. All'inizio degli Atti degli Apostoli Gesù sale al cielo dopo 40 giorni, alla fine del Vangelo il giorno stesso di Pasqua. Luca, scusa, vabbè, che tu non vada d'accordo con Matteo, va bene, ma almeno con te stesso. Provaci, no? Allora, o dobbiamo ipotizzare che sia un autore affetto da gravi crisi di amnesia, bisognerebbe non leggere tutto il resto, è uno che scrive benissimo. O l'ho fatta apposta per dire, ma sì, ma non state dietro al numero di giorni che è rimasto sulla terra. Che importanza ha? Non c'è più. Non c'è più fisicamente tra noi sulla nella storia. Non interessa quanto sia rimasto, cosa abbia fatto. Io te lo racconto due volte, una volta che giorno stesso di Pasqua, l'altra volta 40 giorni dopo. Luca, negli Atti degli Apostoli, racconta tre volte la conversione di Paolo e la racconta in tre modi diversi. È un modo per dire, allora dai, vuoi concentrarti sui particolari? No, non farlo. Ti metto in condizione di non riuscire a farcela. Concentrati sul messaggio di fondo, su altro. Ed è vero che è affascinante. Poi io sono un altro di quelli che poi confesso che, sapendo che sono cose secondarie, che devono restare assolutamente secondarie, anche già solo le considerazioni linguistiche sulla parlata di Gesù mi affascinano da matti, e i Vangeli qualcosa lasciano trasparire, e quel qualcosa che lasciano trasparire a volte è estremamente affascinante. Una volta che uno sia consapevole che sono cose secondarie, un esempio, Eloi, le masse bactali, quella citazione lì non esiste da nessuna parte. Perché? Va bene, è detta in greco e cerca di riportare una lingua che non è il greco, quindi già bisogna mettere in conto che un po' di pasticci nella trascrizione c'è. Solo che assomiglia moltissimo al Dio mio, perché mi hai abbandonato, Salmo 22, in ebraico. O meglio, fa un miscuglio insensato di ebraico e di aramaico. Eloi è aramaico, l'ebraico sarebbe Eli. Non è uguale. E sabachthani, sabach è un verbo aramaico, ma la costruzione con tani è ebraica, ed è quello del testo dell'ebraico. Asaftani però in ebraico. Cioè, cos'è successo? Verrebbe da pensare, perché una costruzione del genere non te la puoi inventare, è troppo mal sistemata, verrebbe da pensare che chi l'ha riferita l'abbia sentita. E ti è rimasto impresso perché era una cosa strana, detta male. Detta male vuol dire mescolando la tua lingua madre, l'aramaico, con la lingua della preghiera. E addirittura incrociando, mettendoci il verbo tuo, come se fosse usare un verbo piemontese usato all'italiana, in una frase che sarebbe di una preghiera. E mi viene da pensare, forse uno che sta morendo effettivamente perde anche la lucidità e finisce anche in quelle cose lì. È veramente difficile da inventare, soprattutto per uno che parlava greco. Dopodiché, a me affascinano queste cose, ma siamo a livello della settimana enigmistica, cioè va bene, uno può anche benissimo dire non mi interessa, non cambia nulla, e hai ragione su questo. Il cuore del messaggio non è lì. siamo nelle curiosità. Allora. Scusa, ma che una cosa, è la fonte qui. Oh. Sì. Il dopo tutto quello che hai detto, non so se abbia ancora senso questa domanda, nel senso che mi ponevo, visto che stamattina hai citato le. C'è. Hai citato le beatitudini, il verbo al presente della prima beatitudine col verbo al futuro delle altre. Ha senso rifletterci? Ha senso rifletterci. Che senso ha questa divisione tra la prima e le altre? Bisognerebbe chiedere a Matteo, il senso potrebbe essere che, io l'ho interpretata così stamattina, che la presenza nel regno di Dio è già data adesso. Cioè si è già in sintonia con Dio quando si è poveri in spirito o quando si è miti, quindi però è Matteo. Quindi va benissimo, arriviamo a cogliere non tanto quello che Gesù ha detto, quanto che quello che Matteo gli ha fatto dire, che è sensato ad un livello inferiore, giustamente, però è quello che Matteo offre come tentativo per interpretare Gesù. Gli spazi di interpretazione sono tanti, cioè voglio dire, se io scelgo un'interpretazione, questo il mondo ebraico lo fa sempre, Gesù in ebreo, non è detto che le altre siano sbagliate, è più un approccio del tipo artistico. Allora io di un'opera d'arte posso vederci una cosa lecitamente perché gli elementi ci sono, un altro dice ma io c'è più quest'altro lecitamente perché gli elementi ci sono, se mi invento gli elementi no, però anche interpretazioni diverse sono possibili. Sì, la fonte Q è un'ipotesi molto fondata, perché Matteo e Luca copiano da Marco. Come facciamo a capire che copiano? Perché ci sono dei pezzi che sono identici alla lettera, come fanno i professori, siccome trovano due studenti che erano seduti vicino, che hanno il compito uguale alla lettera, invece di pensare allo Spirito Santo, che sarebbe molto più rispettoso, pensano che uno dei due abbia copiato. E vabbè, hanno copiato. Matteo e Luca hanno copiato da Marco, che ha scritto prima. Nell'antichità non è plagio, è addirittura un gesto di onore. Come dire, l'hai detto talmente bene che io non posso ridirlo meglio, quindi lo ridico uguale. Poi però ci sono dei passi in cui Matteo e Luca sono identici, ma non copiano da Marco, perché Marco non ce l'ha quel passo o perché è diverso da Marco. Chi ha copiato da chi? Ecco, è talmente complicato riuscire a capire chi ha copiato da chi tra Matteo e Luca, perché a volte sembra in una direzione, a volte nell'altra, che l'ipotesi è che tutti e due abbiano copiato da un altro, che a noi non è arrivato. Quindi è un'ipotesi molto fondata, ma senza prove. Il fatto che non ci sia arrivato non vuol dire che non sia esistito. Due esempini al volo. Il Vangelo di Tommaso che vi ho citato prima. Noi ne avevamo un po' di citazioni a pezzi. Era citato dai padri della Chiesa, ma non ce l'avevamo. Nel 31, scavando ad Alessandria d'Egitto per fare un parcheggio, perché poi era quello lo scopo, trovano un quartiere che non si sapeva che esistesse, sotto la sabbia, e dentro a questo quartiere ci sono un sacco di manoscritti, cristiani in grandissima parte, tra cui anche diverse copie di questo Vangelo di Tommaso. C'era, trovato. Un altro esempio più buffo, mi piace da matti. Allora, il libro del Siracide nell'Antico Testamento si presenta come una traduzione. C'è Gesù, figlio di Sirac, che dice: io ho tradotto l'opera di mio nonno. Va bene. In greco. È scritto in un greco abbastanza bello, non bellissimo, ma discreto. Nessuno aveva mai visto l'originale del Siracide. Quello che si è sempre detto fino a quasi un secolo fa era: vabbè, finzione letteraria, no? Ha fatto finta di tradurre, in realtà ha fatto un'opera. Lo fa Manzoni, vuoi che non. C'è un sacco di gente che l'ha fatta questa cosa. A Qumran abbiamo scoperto un pezzo del Siracide in ebraico, corrisponde. Aveva ragione lui, era una traduzione davvero. Però fino al 48, fino al 54-55, quando hanno pubblicato anche quella parte lì, praticamente tutti i biblisti dicevano sì, Siracide è finzione letteraria di traduzione, ma in realtà è un'opera originale in greco. No, era davvero in ebraico prima. Però non... appunto, lì c'è la prova. La fonte Q è un'ipotesi molto credibile. Finché non abbiamo la prova, non abbiamo la garanzia davvero. E magari un giorno scopriremo che invece, che ne so. Perché si chiama Q? Perché quelle, fonte. Fonte praticamente. Tedesco, sì. Posso fare una domanda che magari... Perché questo... Gesù che non parlava così chiaro, cioè, ma loro non capivano, ma... non lo riconoscevano. A me fa un po' arrabbiare che dici parla chiaro, perché anch'io non ti capisco. Già loro che ce l'avevano lì sotto il naso, uno non capiva, l'altro aveva detto, ma non detto, ma aveva... Ecco, perché? Qual era l'utilità? Allora, è il destino di tutti, di essere capiti meglio soprattutto da chi ci è molto più vicino e si sintonizza con noi. Ecco perché il fatto di avere delle fonti che sono di parte non è detto che sia un problema. Averne una sola sarebbe un problema, averne tante va meglio. Non sarebbe meglio avere delle fonti neutrali? Non è detto che lo avrebbero capito meglio, anzi. Due, perché il parlare di Gesù era probabilmente davvero in stile profetico, allusivo, come un artista. Perché un artista non parla chiaro, ma parla per evocazioni? Ma perché il suo scopo non è di farti lo scienziato che ti spiega le cose, il suo scopo è di farti intuire una realtà. E io te la faccio intuire da artista facendoti ripercorrere il mio percorso. E quindi non è che ti spiego esattamente cosa devi pensare, ma ti faccio arrivare all'intuizione. Terzo, perché comunque... anche gli evangelisti sanno che la distanza culturale già da Gesù al tempo in cui scrivono esiste e ha maggior ragione per noi. Di fatto Gesù non invita, anche in questo Matteo si coglie, a fare delle cose o a credere delle cose, quella è l'illusione del catechismo, ma invita ad entrare in un modo di ragionare diverso. E nel Vangelo, tra l'altro, si scopre che Gesù diverse volte, anche di fronte a persone che lo vorrebbero mettere in difficoltà o contestarlo, ma poi si mettono in gioco seriamente, lui è molto disponibile. Cioè è veramente di nuovo al cuore l'incontro autentico. Non devi credere queste cose, devi fare queste cose. Nel Gesù dei Vangeli questo manca. Mi riallaccio a quei due poverini, papà e mamma, ancora, che hanno dovuto subire, non capiscono, poi non vanno, dice lasciamo perdere, lui fa il bravo dopo, e portava dentro queste cose, chi l'ha visto l'ha visto. Ed è qual era l'utilità? Portare dentro quelle cose, ripensarci, che in fondo è veramente un appello interessante per la nostra esistenza, non ti dico che le cose sono così, ma... pensa, secondo te potrebbero essere così? Dai. Io e tuo padre, tre giorni angosciati, era mica tre ore, tre no. Giorni e tre notti. Perché mi cercavamo? Gliela fatta grossa, No, no, è... Neanche adesso un ragazzo di oggi sarebbe un mezzo... Non dico, dica lei la parola, cosa sarebbe? No, no, ma è chiaro che l'unico... Io di solito non calco la mano su quell'episodio lì perché potrebbe non essere storico, probabilmente non lo è. Ma non quello essere... storico. Ma però magari... però Luca, per Luca quello è un modo di presentare di Gesù. E magari lo è, e magari lo è. Ma l'altro in cui è tutto molto coerente con il mondo culturale, c'è uno di famiglia che fa delle cose strane, dice delle cose strane, dicono che è impazzito o indemoniato. Quindi la vergogna per questa sua malattia ricade su di noi come famiglia. Perché il modello è quello dell'onore, eh? Quindi cosa facciamo? Andiamo a riprendercelo. Ce lo chiudiamo in casa. ci sono qua fuori tua madre e i tuoi fratelli che ti chiamano. È chiaro, non entrano dentro, lo aspettano fuori, se lo prendono, se lo portano a casa. E lui chi è mia madre? E non esce. Bel maleducato. Madama. ricordo che non era più applicata, ammesso che sia mai stata applicata quella legge lì, ma sui figli ribelli che non obbediscono all'autorità del padre, il Levitico prevede la pena di morte. Bisogna l'altro. Tocca dire, adattiamolo anche un po', ma così no. Sì, esatto. Quindi voglio dire, poi non sappiamo, sicuramente al tempo di Gesù non poteva essere applicato perché i romani avevano, si erano avvocati a sé la pena di morte, lo fanno ovunque. Con una eccezione interessante di cui di nuovo non eravamo sicuri, poi si è trovata la scritta si è trovata, per cui avevano concesso che chi venisse trovato non circonciso nel cortile interno del tempio che era riservato agli ebrei poteva essere ucciso sul posto. L'unica eccezione, altrimenti la pena di morte dei romani, punto. Ma lo fanno ovunque, questo è costante. Rispettano molto le leggi che trovano, con alcuni limiti. Quello lì si metteva la cinghia e le bretelle per non farsi prendere in castagna. Mamma mia, sì. Tommaso. Il Vangelo di Tommaso. Riporta le frasi che avrebbe detto Gesù. Sì. Bene. Sì. E dalle frasi che ha detto Gesù non si potrebbero avere delle intuizioni. Quindi ma perché non vengono? Quelle frasi lì, tra l'altro, sono normalissime. Cioè, veramente, fossero infilate nel Vangelo. Perché non le metto? Perché, e quello è il punto, non hanno niente di strano. Per dire, il Vangelo di Giuda potrebbe anche essere più vecchio del Vangelo di Tommaso, ha un problema. È un Vangelo esoterico, gnostico. Parte dall'idea che Gesù ha detto delle cose, ma solo Giuda l'ha capite, perché gli è stato rivelato a parte come capirle. Questo è un approccio da iniziati che al cristianesimo non è mai piaciuto. La verità è tutta trasparente. Quindi, Giuda che non finisca nel canone si capisce. Tommaso non dice niente di strano, cioè quel Vangelo lì c'ha niente che, cioè, magari mi apre delle prospettive nuove, no, neanche quello. La mia domanda dentro era quella, non è che ci sia qualcosa, non c'è niente in particolare. Il Vangelo di Tommaso che se le prende con le donne, sì, però a cui può darsi. Ma in Paolo un paio, come sappiamo, Paolo si tira dietro l'accusa di essere misogino per un paio di cose dette che mi verrebbe da prendere Paolo che sta a sentire. Vuoi prenderti sta benedetta abitudine di rileggere quello che scrivi prima di mandarlo in giro, che poi per 2000 anni perché Paolo passa da misogino e noi sappiamo dai saluti che fa che un terzo dei suoi collaboratori erano donne. No, alla faccia del misogino. Cioè aveva più donne lui tra i suoi collaboratori che noi nel Parlamento, quindi mi sembra che, solo che effettivamente un paio di cose dette male e non siamo sicurissimi su cosa volesse dire, probabilmente era molto più specifico, si porta dietro problemi. Una battuta misogina nel Vangelo di Tommaso non sarebbe bastato a toglierlo dal canone, perché purtroppo ce n'è di battute misogine anche nei Vangeli. Quando Gesù spiega, parla contro il divorzio, la battuta dei discepoli è riferita dal Vangelo di Matteo, ma se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna è meglio non sposarsi. Complimenti! Che poi condizione voleva dire alla pari. Cioè se siamo alla pari con la donna è meglio non sposarsi. Devo vedere. Ma c'è ancora quella frase? Certo, quella frase c'era nei Vangeli. Sì, ecco, appunto, non è un Vangelo. Voglio dire, non sarebbe bastata una battuta misogina per non finire nel canone, perché purtroppo c'è. Sì, Franco, ho letto una storia del Concilio Ecumenico Vaticano II, scritto da una storica napoletana, Adriana Valerio, molto brava, che ha raccontato La storia della presenza delle donne durante il Concilio Vaticano II. Ad un certo momento Papa Paolo VI, mi sembra la seconda o la terza sezione, non mi ricordo più quale, le ha fatte, ha permesso che anche donne potessero partecipare ai lavori del concilio, ma in assemblea non potevano parlare. E il cardinale, quello reazionario, come già si chiamava, Siri o Siri. Caro. No, no. Ottaviano. Ottaviano. Le donne in assemblea tacciano. Paolo. Prima lettera ai Corinzi. Le donne in assemblea tacciano. E non hanno potuto parlare. Potevano parlare nei gruppi piccoli, ma in assemblea no. Adesso con Papa Francesco le cose sono un po' cambiate. Un po' cambiate. Sì, noi abbiamo letto in questi giorni la lettera continua, la prima lettera ai Corinti. E a un certo momento abbiamo detto, ma su questa cosa poteva prestare. Anche perché poi il recente parli del passato. Sì. Ma poi proprio quel passo sulla copricapo delle donne nella preghiera è un esempio chiarissimo del fatto che Paolo rilegge, perché dice una cosa, dopo due righe dice che la cosa che ha detto prima non vale. Cioè, ma vale questa cosa. Poi noi continuiamo a leggerla in chiesa per secoli, dai, prova a metterci un po' d'ordine. Non lo sapevo. Ma poi in chiesa comunque di San Paolo, infatti non ha mai goduto delle mie simpatie. Leggono sempre solo quei brani lì? No, leggono tanti brani che non si capiscono. E soprattutto che si capiscono se... sono quelli. Esatto. Tanti che non si capiscono, perché poi il ragionamento di Paolo, oltre ad essere di questo tipo, per cui non è, a parte la lettera ai Romani, molto ben organizzato, perché è vero. Cioè, grande intuizione, però non si organizza bene. E poi lo leggi a pezzi e finita. Poi vabbè, le frasi lunghe, quello è il suo stile. Cioè, mi viene sempre da dire, ma scusate, prendete un articolo, un corsivo di un quotidiano e leggetene un periodo al giorno. Ma cosa capiamo? Cioè, se io domani vado avanti dalla lettura dell'articolo che ho iniziato ieri, ma... E noi trattiamo così, però la parola di Dio in chiesa spesso. 10 righe. E cosa c'è prima? Cosa c'è dopo? Cioè, queste 10 righe non ci ho capito niente. È normale che non ci hai capito niente. Perché già è difficile di suo, va bene. Già è mal realizzato, ma poi se ne prende un pezzettino è finita. Vabbè. Bene. Scusate la lunghezza. No, mi faccio prendere. No. Bene. Spero che qualcuno ci venga a mangiare. Alle 9, perché poi alle 9 e mezza. No, alle 9 e mezza si comincia. Quindi. Sì, no, alle 9. 9 e mezza si comincia. No, 9 e mezza tassativamente si comincia. Si comincia, sì, perché poi c'è l'Eucaristia a mezzogiorno, poi c'è di nuovo il pranzo condiviso, vuole fermarsi con figli a portare qualcosa, avremo la possibilità di confrontarci con Chiara Mori. Chiara Mori è una biblista che insegna all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano. Come lui? Sì. Ma, anche, noi cerchiamo solo... Anche se è una donna? Anche se è una donna. Anche se è una donna. In questi anni ne abbiamo trovate molte donne brave, che ci stanno aiutando. Generalmente le donne o sono brave o non ci sono. In questo campo. È difficile. Si chiama questa? Chiara Mori. È di Beinette? No, lei è originaria di Beinette. Di Vicenza. Lei è di Vicenza, sposato però un Sergio Carletto di Beinette, sono venuto ad abitare, insegna a Fossano ed è insegnante di lettere da qualche scuola. Sì, nel torinese. Credo che sia ancora lì, nel senso che non si sia trasferito. Sì. Tipo a Villa Stellone. Va bene. Grazie. Dell'ottimo pranzo, abbiamo avanzato un sacco di roba. La consumeremo domani. Ringraziamo Angelo per l'ennesima volta. Mm? Domani ricorderemo ancora l'impegno che abbiamo il 7 maggio, questa volta lo facciamo, l'incontro lo faremo a Peveragno, Madonna dei Boschi. Ecco, ci sarà Sonia Ristorta, non so se la conosci. Sonia, sì. Molto brava. Sì, sì, sì. Sonia Ristorta è un'altra teologa di... Non Cervasca. Cervasca. Allora, quando l'avevamo conosciuto la prima volta, ad un certo momento, forse di più, Margherita le chiesto: ma come mai tu sei così brava a spiegare questi concetti abbastanza difficili? C'aveva un linguaggio molto, sì, è bravo, così, molto accessibile, molto accessibile. E lei ha risposto, sapete come? Perché insegno religione ai bambini, nell'elementare. La seguo. Come? E i bambini la seguono. E i bambini, sì, la seguono. Sia cristiani che musulmani. Sia cristiani che musulmani. Due nipoti che vanno, sono stati da me. Sa spiegare proprio bene. Peccato che persone come Angelo, come Sonia e come Chiara siano tutto sommato abbastanza poco valorizzati nell'ambito ecclesiale, purtroppo. Però facessero altre cose. Ma forse io per loro. Se c'è troppa sintonia. Va bene. Andrea, vuoi concludere tu? Priore della casa, sono ancora abbastanza sotto shock, sto cercando di capire cosa dobbiamo fare. Abbiamo fatto una riunione con il